info. Salute e società. Punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Ben ritrovati a tutte e a tutti con So Info, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute e della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Oggi inauguriamo il quarto e ultimo tema di questo nostro percorso, un argomento di cui si parla ancora poco ma sul quale vi sono tante domande: la menopausa. Il nostro percorso di approfondimento inizia con la dottoressa Beatrice Azzalini, ginecologa dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, che ci spiega cosa sia la menopausa. La menopausa è una fase della vita della donna, di solito per l'età media parte dai 48 ai 52 anni, per noi italiane avviene quando si verifica la cessazione dell'attività ovarica. I sintomi possono essere estremamente variabili da persona a persona, che vanno appunto dalle classiche vampate, che è il sintomo più evidente che riferisce la donna, alla secchezza vaginale con disturbi dei rapporti e quello che ne consegue. Naturalmente noi valutiamo la donna a lunga scadenza, perché l'età media della donna arriva ai 86-87 anni, per cui quello che comporta la menopausa con la carenza di estrogeni a lunga scadenza, possono intervenire su difficoltà dell'apparato urogenitale, dell'apparato scheletrico e anche neurologico. Interviene la carenza degli estrogeni, se abbiamo delle modificazioni dell'apparato scheletrico, via via quindi una successione di osteopenia e osteoporosi che può essere legata alla carenza di estrogeni, interviene su gli estrogeni agiscono anche a livello del sistema nervoso centrale e ci può essere un danno a livello anche cellulare dei neuroni, sia a livello del corpo neuronale sia a livello della terminazione nervosa che è l'assone, e inoltre anche l'apparato urologico può essere interessato sia a livello vescicale che uretrale, perché parte di questi organi possono avere l'influenza degli estrogeni. Importantissima è la terapia che noi mettiamo in atto, proprio farmacologica, in visione al lungo periodo che la donna compie in menopausa, e per cui come prevenzione attiva proprio per l'osteoporosi e poi a livello dell'aspetto proprio cutaneo, a livello cognitivo e a livello di tutte le attività che una donna può svolgere. Info. Salute e società. Punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.